Fermo azione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica. 27 aprile 2015, oggi la diretta d'azione, come ogni lunedì, è una diretta d'azione fatta di controinformazione e soprattutto letture, lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki, il libro con cui abbiamo iniziato questa stagione e lo stiamo quasi portando a termine. Allora, ricordiamo subito gli indirizzi per Radiazione: radiazione@autistici.org per chi vuole mandare scritti, comunicati, mail, materiale per dare una mano anche a Radiazione a far aggiornare il sito quotidianamente con la controinformazione, o anche mandare consigli sui libri da leggere il lunedì di lettura, perché siamo quasi alla fine, siamo quasi alla fine, volta è bene. Noi ce l'abbiamo già nel cassetto, aspettiamo sempre un consiglio. Ciò nonostante tutto siamo fiduciosi. Oggi è un lunedì bello grigio e piovoso, che sembra il 27 novembre, non aprile. A parte il caldo, fa caldo, parte il caldo, è vero. Indian summer sarebbe. E allora, questo è per quanto riguarda la mail di Radiazione. Invece per il sito radiazione.org, dove potete leggere la controinformazione aggiornata, dove potete riascoltare le dirette d'azione attraverso la pagina dei podcast e scaricare un bel po' di materiale nella pagina download, dove trovate opuscoli, cd, libri, manifesti, insomma tutto quello che viene messo a disposizione dai compagni per farlo circolare gratuitamente. E poi ricordo sempre che sa chi lo scarica e lo mette in diffusione, ne fa copie per metterlo in diffusione sui propri banchetti, di ricordarsi che esistono le case di solidarietà anarchiche, che sono, per chi non lo conoscesse, ma è strano, si conoscono, quelle casse che praticamente raccolgono un po' di sordini e li mandano ai compagni detenuti in galera. Il sito di Radiazione è bilingue, c'è la sezione italiana e quella croata, a cui potete accedere attraverso il banner che si trova in sidebar. E sito e radio sono ospitati dal server anarchia.net, messo a disposizione dal compagno di The Anarchist Library, a cui ringraziamo, mandiamo sempre il nostro ringraziamento e salutiamo. Allora, questo è per tutti gli indirizzi utili per Radiazione. Prima della diretta abbiamo mandato, come di consueto, l'ultima parte di lettura di Nessuno ci salva, cioè quella di lunedì scorso, quindi non dobbiamo fare nessun riassunto, possiamo iniziare subito con il nuovo capitolo di oggi. Quindi ci ascoltiamo un brano, loro sono The Adolescence, Surfside, e poi dopo si torna qui e si inizia subito con una nuova lettura di Sergio Spiasecki con Nessuno ci salva. Destructive ways, no longer do the flames burn from the hell that Destino si diverte. Jan fu condotto al commissariato della prima zona, che si trovava proprio al centro della città, mentre Baran venne portato direttamente alla questura centrale. Lo gettarono in una cella separata e buia, gli slegarono le mani e i piedi e chiamarono un dottore che non era altro che il veterinario che lo aveva fatto trasferire dalle carceri al lazzaretto. Questi riconobbe subito il cognato della perfida Tania e cercò rabbiosamente di farlo tornare in sé, bruciandogli con l'alcol le mucose del naso. La polizia sapeva di aver preso nella rete due grossi uccelli e intendeva strappare loro tutte le informazioni possibili. Li avrebbero interrogati separatamente e avrebbero messo a confronto le loro deposizioni. Al commissariato della prima zona esistevano due sole celle, una per donne e l'altra per uomini. Dato che la prima al momento era vuota, Jan vi fu provvisoriamente rinchiuso, ma nel pomeriggio, essendo giunte due donne, venne trasferito nell'altra cella. Qui trovò un solo detenuto, un ebreo che di nome faceva Davidka, di professione parrucchiere. Era stato messo dentro sotto l'accusa di aver rubato dei rasoi alla cooperativa di via Zakarievska. Era un simpatizzante della mala e conosceva di fama il signorino, e si afflisse molto della disgrazia che gli era toccata. Jan dapprima lo trattò con diffidenza, ma poi si convinse che Davidka era un compagno sul quale si poteva contare come su un amico. Si trovava già lì da parecchi giorni e poté quindi informare Jan di tutto ciò che aveva potuto osservare. In genere era uno che la sapeva lunga su tante cose, perché il suo negozio, che era uno dei più eleganti di Minsk, era frequentato dagli altri papaveri bolscevichi che spesso, mentre chiacchieravano tra loro con la faccia insaponata, si lasciavano scappare di bocca delle notizie molto interessanti. Secondo Davidka, Jan si trovava purtroppo in bruttissime acque. In generale, chi veniva portato al commissariato della prima zona non usciva se non per andare alla Komarovka. Accadeva raramente che gli arrestati, che per lo più erano noti pregiudicati e recidivi, venissero prima tradotti dall'ufficio investigazioni per subire un interrogatorio. L'unica è cercare di trascinare le cose in lungo nella speranza che nel frattempo accada qualche miracolo. Ma in che modo? Disse Jan. Ci penseremo. Quello che è certo è che sei spacciato se qualche santo non provvede a farti trasferire di qui. E tu? Beh, il mio caso è diverso, è la prima volta che mi beccano e in fondo l'accusa che pesa su di me è insignificante. Tuttavia non mi meraviglierei di trovarmi anch'io al muro una di queste notti. Quanto a Baran, è fritto. Neanche il Padre Eterno lo può sapere. Jan si guardò attorno. Non c'è una via di scampo da questo buco. L'ebreo sputò a terra. È pieno di sgherri, giorno e notte. Non una sola finestra. Proibito andare al cesso, anche se hai la cacarella. E se ti scappa, lì c'è il secchio. Niente da fare, caro mio. Le due celle, benché fossero tirate su alla bella e meglio, separando un angolo dallo stanzone a pian terreno con delle tramezze di legno, tuttavia erano circondate da un tal servizio di vigilanza da rendere impossibile qualsiasi tentativo di fuga. Thank you. A mezzogiorno il secondino portò 150 grammi di pane nero a testa. E verso sera un po' di brodaglia in una scatola da conserva. Quando si fece buio, Jan si sdraiò sul suo giaciglio, addossato alla tramezza dietro la quale si trovava la cella femminile, e ascoltò per un pezzo le loro conversazioni interrotte di quando in quando dal pianto isterico di una di esse. Davidka si voltava e si rivoltava nel suo angolo. Ad un certo punto si alzò e, avvicinatosi a Jan, sedette accanto a lui sul giaciglio. Quando viene la notte, caro mio, la tremarella aumenta. Hanno la maledetta abitudine di venirtelo a dire di notte quando hanno deciso di farti la pelle. Accese una sigaretta e la passò a Jan perché ne tirasse qualche boccata. Non avevano voglia di dormire. Jan continuava a rimuginare gli avvenimenti che lo avevano cacciato in un guaio così grosso. Non riusciva a capire come e perché fosse stato arrestato. Pensava con dolore a Nastka e a un certo punto gli balenò perfino il dubbio che fosse stata portata via anche lei. Eh sì, le cose si erano messe piuttosto male per lui. Probabilmente non sarebbe stato neppure interrogato e una notte, forse quella notte stessa, lo avrebbero caricato su un camion e via. Eh no, quella volta non sarebbe riuscito a scamparla, lo sentiva, e dire che su di lui non pesava la minima accusa. Le ore erano terribilmente lunghe e angosciose, di notte. Ogni autocarro che passava sulla strada faceva imperlare di sudore freddo le fronti dei prigionieri che alzavano il capo dal loro giaciglio tendendo l'orecchio finché il rombo si allontanava. Stavolta è per me. Ah no, non ancora. Nessuno riusciva a chiudere occhio di notte. L'alba gettò il suo freddo chiarore su Jan e Davidka, ancora appoggiati alla tramezza, uno di fianco all'altro, nella stessa posizione della sera prima. L'ebreo allora disse: «Beh, il Padre Eterno ci concede ancora un giorno di questa porca vita. Fumiamoci su». E accese una sigaretta e la passò di nuovo a Jan, che aspirò una boccata e poi la ripassò a lui. Quando l'ebbero finita, si sdraiarono ognuno sul proprio giaciglio per riposare. Davidka si addormentò subito, ma Jan rimase ancora a lungo con gli occhi aperti e le mani sotto la nuca. Più tardi, il secondino portò la stessa brodaglia del giorno prima. Davidka si svegliò e tutti e due si misero a ingoiare con avidità. Poi passeggiarono a turno nello stretto spazio compreso tra la porta e la parete di fronte. Nella cella non c'era altro che le due cucce, uno sgabello e la secchia per i bisogni corporali. Davidka, però, dopo 5 minuti che camminava, dichiarò che preferiva rimanere sdraiato. La fame arretrata di parecchi giorni gli tagliava le gambe. Ma Jan continuò per un pezzo a misurare i 3 passi di lunghezza della cella. Aveva una voglia matta di fumare, ma vedendo Davidka con gli occhi chiusi, non voleva svegliarlo per chiedergli una sigaretta. Ma a un certo punto l'ebreo si rizzò a sedere, fece cenno a Jan di avvicinarsi e gli bisbigliò all'orecchio: «Senti, ho trovato un trucco per farti trasferire all'ufficio investigazioni». Jan attese con impazienza che si spiegasse. «Bisogna fare in modo che credano che hai cercato di impiccarti. Io fingerò di essermene accorto in ritardo e farò un baccano del diavolo, vedrai che ti porteranno via di qui». Jan non sembrava, a dir la verità, troppo persuaso, ma Davidka insisté: «Devi tentare, dammi ascolto. Da una parte c'è la possibilità di salvarti, dall'altra nessun rischio. Il rischio maggiore è di non tentare nulla. Se pensi che stanotte stessa potrebbero venirti a prendere per portarti alla Komarovka, mi secca veder fare a un ragazzo in gamba come te una fine così stupida. Eppure sarà inevitabile se lasci andare le cose come vanno». «Ma sì», fece Jan, «hai ragione, vediamo ora come si può fare per non far scoprire il trucco e cascare dalla padella alla brace». Il piano doveva essere studiato nei minimi particolari perché le probabilità che fallisse fossero ridotte al minimo. Avrebbero messo lo sgabello rovesciato vicino alla porta e legata una corda all'inferriata. Jan si sarebbe sdraiato in posa drammatica con un nodo scorsoio alla gola. Appena pronta la messa in scena, Davidka avrebbe dato l'allarme gridando che il suo compagno di cella si era impiccato. We'll be right back. Questi erano Fear Cult con il brano Drop Dead. Ora si passa alla controinformazione. Oggi la controinformazione la suddividiamo in due testi, due lunghi testi. Non sono recenti, perché come controinformazione recente non c'è nulla, quindi se si decide di prendere questi due testi, uno che ce lo mandano i compagni francesi di questa rivista Death Ruin, di cui abbiamo letto già una o due settimane fa il testo sul prigioniero politico, e l'altro è un testo apparso su Macete del 2007, ma io penso che sia attualissimo. E quindi c'è una piccola nota messa sul testo dei compagni francesi, che dice che questo è l'editoriale del primo numero della rivista anarchica francese, di cui abbiamo già pubblicato un testo, ne ho detto prima. Questo editoriale c'era già giunto all'epoca, ma non conoscendo il francese ci eravamo astenuti dal tradurlo. Ora, anche se con un po' di ritardo, lo pubblico per il semplice motivo che lo condivido e perché continua i vari dibattiti portati avanti anche da Radioazioni e altri, purtroppo pochi, compagni, anche con i toni che possono dare fastidio, ma ognuno parla come mangia e il politica correct non ne vogliamo sapere. Allora, il testo, l'editoriale di Death Ruin inizia con una citazione, penso che sia loro perché non c'è la firma di nessuno, che dice: non abbiamo paura delle rovine, noi riceveremo questo mondo in eredità. La borghesia, più che far saltare in aria e demolire il suo mondo prima di abbandonare la scena della storia, noi portiamo avanti un mondo nuovo nei nostri cuori. Questa rivista si dà per ambizione quella di smuovere le riflessioni, le ricerche e i dibattiti a proposito delle prospettive anarchiche e anti-autoritarie. Alcuni dibattiti sono vivi e sempre d'attualità, altri erano stati messi da parte e vengono esumati per l'occasione. Non si tratta di un giornale d'attualità e di agitazione distribuito in strada e redatto nell'urgenza, ma ci è parso altrettanto necessario e complementare, perché la sensazione di una mancanza si faceva sempre più forte, così come la necessità di ricominciare a dotarsi di strumenti più intemporali di quelli soliti per esprimersi su cose più profonde del filo dell'attualità, con il tempo e lo spazio per farlo. Essa si indirizza quindi ad un pubblico avveduto, ecco quindi l'avvertimento, e vicino, e non ancora, alle questioni sollevate. Il nostro scopo è di contribuire allo sviluppo delle nostre idee, troppo spesso rinviato a più tardi da un attivismo senza basi e odio in una desolante passività pratica ed intellettuale. Se la mancanza di fiducia in se stessi della maggior parte dei compagni ci impedisce di produrre teoria, e ci sono anche alcuni guardiani del tempio che vorrebbero che le idee restassero centralizzate nelle loro mani, qui lasceremo da parte questo atteggiamento, perché non abbiamo conti da rendere a nessuno, non abbiamo conti da rendere a nessuno e ce ne freghiamo alla grande dei bottegai ideologici, dei vari gruppuscoli tanti occupati ad adattarsi e a sopravvivere, a perpetrare dogmi ed egemonie raramente sottomessi all'autocritica e raramente disponibili alla critica. C'è anche che abbiamo fiducia nelle nostre capacità e rifiutiamo l'autoflagellazione permanente nella quale tanti di noi si crogiolano, rifiutando di sentirsi capaci di o pertinenti per esprimersi, mentre lo sono di gran lunga. Ecco perché vogliamo ricordare che il pensiero non appartiene agli intellettuali, la storia non appartiene agli storici, l'anarchia nemmeno non appartiene ad una qualunque intelligenza dell'anarchia, né all'intelligenza avversaria. Essa ci appartiene, essa appartiene a tutti quelli che si prendono la briga di farla vivere, ognuno a modo suo, con ciò che lui, lei è, senza lasciarsi minare dai vescovi e dagli inquisitori delle piccole cappelle ideologiche o della borghesia. Anche se decostruzione dopo decostruzione è diventato elegante farlo, rifiutiamo quindi considerarci come della merda e come degli incapaci, cosa che questo mondo desidera e che ci inculca attraverso l'educazione, che il movimento finisce di farci accettare del tutto attraverso opuscoli e gruppi di parola che mirano a normalizzarci, ma in maniera differente. Ecco anche perché rifiutiamo di delegare ciò che ci appartiene a degli specialisti, perché le merde precisamente sono loro. Ma dobbiamo ora definire quello che intendiamo per anarchismo, ma ciò sarebbe troppo lungo, allora lo faremo un po' in negativo, un po' in positivo, ed impegniamo soltanto noi stessi in queste poche osservazioni. Questa era la prima parte del testo, l'editoriale a mo' di avvertenza dei compagni di Death Ruin, la rivista anarchica francese. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Melt Banana con il brano Candy Gun, poi dopo si torna qui con Nessuno ci salva e poi dopo continuiamo il discorso dei compagni francesi. Thank you. Prima di iniziare i preparativi, attesero che il secondino portasse la solita razione di pane nero a mezzogiorno. Dopo aver mangiato, Jan si tolse la camicia e incominciò a stracciarla, cercando di non far rumore. La stracciava in lunghe strisce che Davdica intanto intrecciava tutte insieme, formando una funicella sottile ma resistente. Poi Jan montò sullo sgabello e annodò alla prima sbarra dell'inferriata la corda, lacerandola poi coi denti poco più sotto, come se fosse stata strappata con violenza. Con l'altro tratto fece un nudo scorsoio e se lo infilò al collo. Tutto ormai era pronto. Erano tutti e due eccitati e nervosi, guardando attraverso uno spiraglio tra le assi della parete, videro che la sentinella di turno stava giocando a scacchi con un altro soldato. Jan strinse con calore la mano di Davidka e lo abbracciò, poi si mise a strofinare con forza la corda contro il collo, stringendo i denti per il dolore. Continuò così per un pezzo, finché la pelle non fu tutta arrossata e lacerata in più punti. Sentiva un bruciore terribile, ma d'altra parte il piano di Davidka aveva tante più probabilità di riuscita quanto più malconcio lo avessero trovato. E a questo pensiero Jan riprese in mano la corda e si diede un'altra energica strigliata. Il collo ora appariva tumefatto. Allora si sdraiò a terra vicino alla porta e strinse il nodo scorsoio con tale forza che per poco non soffocò per davvero. Il sangue gli affluì alla testa e le orecchie gli rombavano. Stralunò gli occhi e fece cenno a Davidka di spicciarsi. L'ebreo rovesciò a terra lo sgabello, fece un salto, lanciò un urlo e si mise a tempestare la porta coi pugni, gridando con voce spaventata: «Aiuto, aiuto! Si è impiccato! Aprite presto!» I due soldati si alzarono di scatto, facendo volare scacchi e scacchiere, e si precipitarono verso la porta. Mentre toglievano il lucchetto dal catenaccio, Davidka si lasciò stramazzare a terra, simulando il tonfo prodotto dalla caduta del corpo di Jan. Poi si alzò, sempre continuando a gridare aiuto. Jan giaceva con la testa appoggiata allo stipite della porta, il suo volto era violaceo, gli occhi sembravano schizzargli dalle orbite le arterie del collo, pareva stesso per scoppiargli da un momento all'altro. Quando la porta si aprì, la testa di Jan sbatté contro il pavimento. Egli si mise a rantolare. La scena aveva una tale parvenza di verità che a nessuno degli accorsi venne il dubbio che si trattasse di una simulazione. Quella faccia livida, quel collo stretto in un nudo scorsoio, quella corda che penzolava dall'inferriata e soprattutto quell'ebreo stravolto e spiritato dallo spavento erano troppo autentici e al di sopra di ogni sospetto. Intanto Davidka continuava a ripetere con voce strozzata: «Ero lì che dormivo tranquillamente ed ecco che a un tratto, boom, mi sveglio e lo vedo che penzola nel vuoto. Dio, che paura! Gli ho dato un violento strattone, la corda si è rotta e lui si è afflosciato a terra. Che spavento che ho preso, dannazione!» I soldati sollevarono Jan e lo portarono di peso nel corpo di guardia. «Bisogna mandare a chiamare un dottore», disse una voce che a Jan sembrava venisse da lontano, da lontanissimo, tanto che era stordito. «Telefonate alla questura centrale! Prima il dottore, presto! Deve essercene uno, proprio qui, di fronte! Forse può ancora salvarlo!» Jan incominciò a rantolare più forte e mosse leggermente la testa. Si sentiva sfinito e il collo gli faceva un male diabolico. Quando qualcuno gli rovesciò in faccia un secchio d'acqua fredda, poi sentì una conversazione telefonica. «Siete voi di turno?» «Che cosa?» «Qui il commissariato della prima zona. Mi sentite, il detenuto che avete portato qui ieri all'alba?» «Sì.» «Si è impiccato?» «Sì.» «Nazevich, Jan Nazevich. A disposizione dell'ufficio investigazioni, avvertite subito il commissariato.» «Sì, il dottore sarà qui a momenti.» «Va bene, attendiamo, agli ordini.» Mentre giaceva con gli occhi socchiusi, Jan pensava con esultanza che forse il piano di Davidka sarebbe riuscito, e a un certo punto sentì una voce adirata: «Beh, e perché non gli avete tolto il nodo dal collo?» «Ah già, idioti!» Due mani gli sciolsero il nodo e gli sfilarono la corda dal collo senza troppi riguardi. Jan emise un gemito, il gonfiore gli faceva inghiottire con difficoltà la saliva, tanto meglio. C'era ancora un punto scabroso da superare: la visita medica. Allora decise di incominciare a tornare in sé, perché non era prudente che continuasse a fingersi svenuto. Il telefono squillò ancora. «Pronto? Sì, commissariato prima zona. Sì, Jan Nazevic. No, non è ancora venuto. Sembra che incominci a tornare in sé. Gli abbiamo tolto il nodo dal collo. Come? Sì, appena il dottore l'avrà visitato lo faremo trasferire. Jan represse a stento un moto di gioia. Si sforzò di rimanere immobile, con la bocca semiaperta e gli occhi stralunati, senza sguardo, volti verso il soffitto. A un certo punto alzò un braccio e lo lasciò ricadere inerte sul pavimento. «Beh, com'è che ti senti?» gli chiese qualcuno. Jan cercò di sollevarsi, ma ricadde pesantemente indietro. «Dategli un po' d'acqua!» In quel momento entrò il dottore. «Beh, dov'è questo impiccato? Eccolo là, l'abbiamo staccato in tempo, sembra che stia rinvenendo!» Il dottore si chinò su di lui, poi gli si accoccolò accanto e osservò attentamente il livido bluastro e il gonfiore del collo. «Apri un po' la bocca!» Gianna sentì la mano del dottore che gli palpava il collo e gemette. «Adagiatelo su quella panca!» Dopo una visita minuziosa si drizzò in piedi e annunciò: «Non c'è alcun pericolo, se l'è cavata con un'infiammazione!» «Beh, noi abbiamo però ordine di trasferirlo alla questura centrale, ma per ora non abbiamo macchine. È in grado di camminare?» «Beh, lo sarà tra poco!» Il dottore si allontanò. Jan restò disteso sulla panca. «Vuoi alzarti?» gli chiese il vice commissario. «Beh, non lo so.» «Beh, provaci!» Jan si tirò su a sedere lentamente. «Su, animo! La questura centrale è qui, a due passi. Ehi, capo posto! Due uomini di scorta, qui subito, voi sergente, stenete il rapporto e inoltratelo alla questura insieme alla corda.» adrenaline. E questi erano Rosetta Stone con il brano Adrenaline. Ora si ritorna sul testo dei compagni della rivista anarchica francese Death Ruin, dal titolo A modo avvertenza, che poi sarebbe l'editoriale del primo numero. E allora, l'anarchismo non è una corrente politica, quindi non è né di destra né di sinistra, ma completamente al di fuori di quello scacchiere e dal sistema generale di punti di riferimento che gli serve da canovaccio. Se è nato da una scissione anti-autoritaria del socialismo rivoluzionario, l'anarchismo ha smesso da tempo di essere una corrente della sinistra, rifiutando l'organizzazione e le logiche autoritarie che sono l'essenza di tutti i movimenti di sinistra. Evidentemente non è questo il caso per tutti gli anarchici, e tra l'altro il termine libertario è stato inventato per descrivere ciò che assomiglia all'anarchismo e ne ha il sapore, senza esserlo veramente, a causa del rifiuto delle logiche conseguenze pratiche di queste idee. Gli anarchici non sono quindi una lobby politica che mirerebbe ad influenzare la società e lo Stato con le sue idee ed in favore dei suoi interessi. Vi è un altro errore ricorrente, essendo gli anarchici invaghiti della libertà, e poiché a partire dal XX secolo la parola libertà è stata profondamente rimaneggiata in un edonismo che non ha più molto a che vedere con le nostre idee, viene quindi fatta regolarmente confusione tra anarchismo e la concezione liberale della libertà, sia in TV sia nei piccoli ambienti universitari o post-universitari impregnati di French theory o dei suoi orpelli. Vaffanculo, io faccio quello che voglio, non ha nulla a che vedere con l'anarchia, così come noi la intendiamo. Lo stesso vale per lo spirito di consumo delle lotte e dei corpi che spesso accompagna questa confusione diffusa anche all'interno del movimento. Secondo noi gli anarchici devono affrancarsi dai totem, ma anche dai tabù, e in particolare di trovare le capacità di de-alienare il linguaggio utilizzato per asservirci. Ciò almeno per quanto è possibile, essendo in sé il linguaggio un'alienazione del pensiero, necessariamente più complesso delle parole. Durruti sosteneva che la disciplina è indispensabile, ma essa deve venire dall'interno, motivata dalla risolutezza. Disciplina, lavoro rivoluzionario, memoria, eccetera. Non abbiate timore, le parole non appartengono solo al potere, hanno un senso che è loro proprio, e anarchismo non è estrema sinistra, non è fare il contrario, pensare il contrario, dire il contrario e quindi bandire in blocco tutte le parole e i concetti umani utilizzati dal potere e dai suoi rapporti di dominazione. Noi vogliamo al contrario fare qualcos'altro e riappropriarci dei mezzi della nostra emancipazione in quanto individui coscienti della loro unicità, associati su base di reciprocità e pronti a venire alle mani con le autorità. Queste poche affermazioni, se mal comprese, troveranno senza dubbio consenso fra quelle e quelli che passano la maggior parte del loro tempo a riformare il linguaggio allo scopo di farne un cavallo da battaglia della decostruzione postmoderna. Ma noi non cadiamo in errore, il linguaggio resta al giorno d'oggi uno dei soli strumenti a nostra disposizione per esprimere le nostre idee. Se siamo tutti d'accordo a dire che il linguaggio non è neutro, poiché forgiato da una tradizione millenaria di dominio, bisogna però anche accettare il fatto che esso è indispensabile per le nostre prospettive e che ci siamo obbligati di servircene. La questione che dobbiamo porci diventa quindi: chi vogliamo capire e da chi vogliamo essere capiti? Ma queste domande in tanti rifiutano di porsele, facendo la scelta facile di fregarsene con arroganza e di rifugiarsi in comode caserme identitarie. Questa era la seconda parte del testo A modo di avvertenza, che è l'editoriale di Death Ruin. Ora ci ascoltiamo un altro brano. Loro sono DK.com con il brano Numb, e poi dopo si torna qui ancora con una nuova lettura di Nessuno ci salva di Sergio Skrzycki. Got it. time. Don't think, don't worry, everything's just fine. Just fine. Don't grab, don't clutch, don't hope for too much. Don't breathe, don't cheat or grieve without leave. Don't check, just bounce on the fence. Don't answer, don't ask, don't try and make sense. Don't whisper, don't talk, don't run. If you can walk, don't cheat, compete. Don't miss the one beat. Don't travel by train, don't eat, don't spill, don't piss in the drain, don't make will. Don't fill up any forms, don't compensate. Don't cow, don't crawl, don't come around late. Or don't harbor at the gate. Don't take it on board, don't fall on your sword, just play another chord. If you feel you're getting bored, I feel. I feel numb. Don't change your brand, don't listen to the band. Don't gape, don't ape, don't change your shape. Have another grape. I feel numb. I feel numb. I feel numb. Don't play, don't bridle, don't chatter, don't grind, don't curve, don't swerve. Life does serve. Don't theorize, realize, polarize, change things, dismiss, apologize. Don't spy, don't lie, don't try. Start again. Don't try, don't coax, don't feel, don't hope, don't freak, peek, don't flee, don't speak. Don't project, don't connect, protect, don't expect, suggest. Don't struggle, don't jerk, don't feel, don't work, don't wish, don't fish, don't cheat, don't watch. Don't pass, don't cross, don't try, don't feel numb. Don't touch, don't die, don't suffer, don't run, don't fantasize, don't ride, don't run. Don't project, don't connect, feel, don't expect, suggest. I feel numb. Don't project, don't connect, feel. Intanto a Mosca Mariuscia aveva chiesto e ottenuto per mezzo del marito, che ora era uno dei pezzi grossi della capitale, di essere inviata a Minsk come delegata della sezione culturale bolscevica. Avrebbe così potuto occupare un posto più importante a Mosca, data la posizione del marito, ma si era sentita attratta verso la città dove aveva passato un periodo così felice con quel ragazzo per il quale ormai nutriva dei sentimenti quasi materni. Fin dalla seconda fase della loro relazione, quando Jan si era un po' allontanato da lei, in verità facendole sentire dolorosamente il peso dei suoi anni, Mariuscia, rinunciando al suo ruolo di amante, era diventata per lui un'amica tenera e disinteressata. E allora era giunta a Minsk il giorno precedente e il commissario Alloggi gli aveva assegnato la camera numero 34 dell'albergo Europa, la stessa prima occupata dal delegato Asia. Sepp era uno dei suoi collaboratori e dirigeva la sezione filodrammatica. Col suo fiuto di vecchio saltimbanco, intuiva che Marucci aveva relazioni altolocate nella capitale e si faceva in quattro per mostrarsi premuroso e servizievole con lei. Appena giunta a Minsk, Marucci avrebbe voluto andare subito da Jan, ma non ne aveva avuto il tempo e inoltre non era neppure sicura che fosse stato rimesso in libertà o si trovasse ancora in prigione. Lo spettacolo del giovane, a dir la verità, le stava tanto a cuore, trascinato come una bestia al macello. L'aveva commossa e indignata oltre ogni dire. Sapeva che i bolscevichi avevano adottato a Minsk, come del resto in tutte le città occupate, una spietata politica di sterminio e odiava quelle belve umane che disponevano con diabolica efferatezza della vita dei loro simili. E questa era stata appunto una delle ragioni che l'avevano indotta a dividersi dal marito. Quando l'automobile giunse alla polizia centrale, Marucci si fece annunziare al commissario con un biglietto da visita sul quale apparivano il suo nome e la carica che occupava nel partito. Fu subito introdotta e sedette nella stessa poltrona che aveva occupata due giorni prima Pavka. Marucci aveva saputo che Jan, all'epoca della loro intimità, molte cose sulla vita dei dritti e molte altre sulla disonestà della polizia. Tra le magagne di quest'ultima conosceva questa: che gli agenti spesso arrestano arbitrariamente dei pregiudicati rimessi in libertà dopo aver scontata la pena di qualche precedente reato per indurli a pagare un riscatto. Esistevano, Marucci lo sapeva, certi funzionari rivoluzionari che dietro versamento di grosse somme facevano sparire l'incartamento di qualche detenuto. Jan le aveva narrato poi molti fatti in cui la corruzione della polizia rivoluzionaria appariva evidente. Sapeva di poter raccogliere, quando lo volesse, delle prove così schiaccianti di questa losca attività da far tremare tutti i commissari di pubblica sicurezza. «Vi ascolto, compagna delegata», le disse il commissario dopo alcune frasi convenzionali di cortesia. Marucci lasciò da parte ogni preambolo e attaccò subito, di petto. «Le chiedo, compagno commissario, l'immediata liberazione del detenuto Jan Nazevich, qui trasferito dal commissariato della prima zona. Anzi, se avessi più tempo, seguirei un'altra via che indubbiamente porterebbe delle conseguenze spiacevoli per molte persone. Conosco a fondo il Nazevich e mi rendo personalmente garante della sua innocenza. Non vi è ombra di motivo per trattenerlo ancora in stato d'arresto. L'ho incontrato per strada mentre lo conducevano qui, legato come una bestia, la corda al collo, esposto ad un vidrio politico come un Barabba. Ah, lei dice l'impiccato? Eh già! Per colpa di chi quel giovane che è innocente voleva togliersi la vita? Conoscete quali capi d'accusa gravano su di lui? Beh, veramente no. E allora informatevene e vi convincerete subito che l'arresto del Nazevich è stato illegale. Badate, compagno commissario, tovarish, che illegale vuol dire contro la legge. Ma io vi pregherei di sbrigarvi, perché non ho tempo mica, non ho tempo da perdere. Il commissario, urtato dal tono imperioso e strafottente di Marucci, si era fatto pallido d'ira. Il suo sguardo prese un'espressione scostante e caparbia. Non era mica abituato a sentirsi dare degli ordini in materia di sua competenza e tantomeno a sentirsi trattare in quel modo. Se la compagna Lobova lo avesse supplicato, se fosse scoppiata in lacrime, magari, ma quel tono non lo poteva assolutamente tollerare. E dopo un attimo di silenzio disse con voce asciutta e un po' sprezzante: per ora non posso proprio occuparmi del caso Nazevich. Ho cose più importanti da fare, sa? Se volete ripassare domattina nell'orario d'ufficio, prenderò in esame il caso del vostro protetto. Marucci si alzò dalla poltrona. Ah, sì. Dunque, non solo non fate il vostro dovere e commettete degli errori madornali, ma non sapete neppure parlare con cortesia. State pur certo che non rimetterò più piedi nel vostro ufficio. Quanto al Nazevich, so ben io a chi devo rivolgermi per ottenere la sua scarcerazione e in seguito mi occuperò anche di voi. Farò di tutto perché usciate da questo bell'ufficio con le mani legate dietro la schiena, portato laddove volevate mandare un innocente. C'era un tal tono di sicurezza nelle minacce della delegata che il commissario impallidì, ma questa volta di paura. E anche se avesse avuto la coscienza tranquilla, c'era sempre il pericolo che quella femmina, sfruttando le sue alte relazioni, potesse nuocergli. I suoi occhi duri e vendicativi non promettevano nulla di buono. Sforzandosi di dare ai propri un'espressione conciliante, allora il commissario disse: «Non intendevo mica offendervi, compagna delegata. State sicura che il Nazevic non sarà trattenuto se nulla risulterà a suo carico. Ho detto soltanto che per ora non avevo mica tempo di occuparmene. Credo», fece Mariuscia, «che sia più semplice liquidare subito la faccenda anziché costringermi a ritornare domani. Beh, ma non c'è bisogno che vi disturbiate, sistemerò tutto da solo. Se le cose stanno come voi dite, non avrò alcuna difficoltà». Mariuscia comprese che quell'uomo avrebbe fatto ormai qualunque cosa per amor del suo quieto vivere e decise dunque di tener duro. «E perché rimandare a domani ciò che la vostra coscienza vi impone di fare oggi stesso? Ma allora vi assumete voi ogni responsabilità? Dal momento che non avete il coraggio di assumerla voi, vi ripeto che sul Nazevic non pesa alcuna accusa, è stato illegalmente arrestato solo perché nella sua stessa casa abita un delinquente». Il commissario premette il campanello e subito entrò un funzionario alto e magro. «Datemi subito l'incartamento Nazevic». Il funzionario uscì. Mariuscia tolse un pacchetto di sigarette dalla tasca della giacca e ne accese una. Per qualche minuto regnò il silenzio. Il commissario, in cuor suo, avrebbe voluto dissipare l'atmosfera di tensione che si era creata, ma non sapeva che cosa dire sotto lo sguardo freddo e penetrante di quella donna. E appena ebbe in mano l'incartamento di Jan, vi scrisse sopra un'annotazione e lo restituì al funzionario. «Stendete l'atto di scarcerazione del Nazevic, restituitegli tutto ciò che gli è stato tolto durante la perquisizione, da questo momento è libero». «Nessun'altra formalità?» «Ah sì, rilasciategli un documento che tuteli la sua incolumità personale e lo preservi dagli arbitri di agenti troppo zelanti». Allora Mariuscia si alzò e si diresse verso la porta. Il suo scialle rosso sembrava uno stendardo. Il commissario le gridò dietro un «Arrivederci, compagna!» Ma essa non rispose, spalancando la porta con un gesto energico uscì dall'ufficio. «È della ragazza arrestata assieme al Nazevic?» chiese il funzionario. «Che cosa dobbiamo farne?» «Beh, ma perché è stata arrestata con lui?» Perché abitava con lui. «Imbecilli! Fanno fesserie su fesserie e poi sono io ad avere i grattacapi. Bella ragione, abitava con lui. Liberate lei subito!» Così Mariuscia, senza saperlo, restituì la libertà anche a Nashtka, che neppure conosceva. E quando il funzionario uscì, il commissario scaramentò con gesto furioso la penna sulla scrivania. «Ah, ma come può andare avanti la giustizia e la rivoluzione se comandano le puttane?» questi erano RTPN. Ora torniamo sul testo dei compagni francesi, da titolo A modo di avvertenza. Da tempo vediamo emanare dagli ambienti contestatori tentativi maldestri di aggiustare il linguaggio attraverso diversi metodi di femminilizzazione, dal più banale giusto fino a quasi alla completa illeggibilità, o grammatiche e ortografie alternative. Alcuni hanno addirittura la sensazione di cambiare il mondo, cullandosi nell'illusione di essere dei grandi rivoluzionari a causa del loro uso dubbio ma volontario della scrittura. Ma allora ritorna sul tappeto la vecchia domanda: da chi vogliamo essere capiti? In effetti assistiamo a volte a quelle che potrebbero essere definite come delle derive settarie, in particolare quando alcuni opuscoli non sono più comprensibili da altri che da quelli e quelle che li scrivono e i loro amici. Si tratta allora di una forma di secessione che non ha più nulla di rivoluzionario, perché invece di agire sul mondo si tratta soltanto di una forma di vivere al di fuori di esso, cosa che costituisce un'altra illusione, poiché a forza di esagerare nell'aggiustamento si finisce per diventare illeggibili. Riconosciamo allora che certe forme di utilizzo del linguaggio non usciranno mai dal piccolo ambiente che le ha create. Pensiamo quindi che quelli che credono di creare un linguaggio liberato si sbagliano ancora. Se domani tutto quello che uscisse da iniziative rivoluzionarie scritte, volantini, manifesti, opuscoli, libri, giornali, fosse scritto in maniera identitaria, senza indicazione del genere, non specista, non agista, che rifiuta ogni forma di dominio basata sull'età, in particolare quello degli adulti sui bambini, non validista e altri ismi all'infinito, più che essere un mezzo per comunicare, il nostro linguaggio diventerebbe una barriera che ci separerebbe dall'umanità. Completamente tagliati fuori dal mondo, non ci resterebbe allora granché da fare, a parte farci reprimere nell'isolamento più totale. Poi c'è una parentesi che dice: perché in effetti chi si preoccupa della repressione esercitata contro delle piccole minoranze volontariamente settarie? Il nostro scopo non è quello di isolarci in un territorio vergine con tutti i nostri amici per parlare la nostra neolingua identitaria e vivere i nostri rapporti cosiddetti liberati. Il nostro scopo è quello di attaccare il dominio dovunque esso si trovi. Dobbiamo renderci conto che viviamo in un mondo senza evasione possibile, che non c'è un altrove dove guarire da qui, che finché esisteranno il capitale, lo Stato e le diverse forme di dominio che li mantengono in piedi, non ci saranno oasi o spiagge di libertà. Siamo obbligati a combattere questo mondo dal suo interno, con tutte le sue contraddizioni, limiti e difficoltà che ciò comporta. Ma sopravvivere non implica già una quantità insostenibile di compromessi? È per questo che abbracciamo la proposta rivoluzionaria internazionalista e rigettiamo le alternative e le diverse pseudo-autonomie locali che non sono che modelli a scala ridotta di questo mondo di merda. Allo stesso modo rifiutiamo che i compagni si riposino all'ombra di altri compagni con la scusa che questi ultimi sarebbero meglio armati, più vecchi, con più esperienza o più capaci a parlare di loro. Facciamo quindi appello a ciascuno perché si sbarazzi dei propri numi tutelari e si prenda in mano, così come facciamo appello a questi numi tutelari affinché essi cessino di approfittare della situazione e si sbarazzino dei propri ruoli quando acquisiti volontariamente, cosa che spesso è frutto dell'inconsistenza degli altri, oppure nel caso contrario vadano a farsi fottere, perché rifiutiamo di evolvere in un ambiente politico mafioso. Essere anarchici o rivoluzionari per noi non è una posa, un'opinione, un arto o una cultura. Non c'è un look anarchico, nessuna identità, nessun segno di riconoscimento. Essere anarchici significa lottare e combattere il dominio, con le braccia, le gambe, il cuore e il cervello, con tutte le conseguenze positive tanto quanto negative che ciò implica. Essere anarchici non consiste nell'affermare delle posizioni di principio antagonista e leggere qualche libro con la copertina rossa e nera, né il portare qualche opinione scioccante sulle distro, nelle università della borghesia, su internet o in posti occupati fisicamente o mentalmente chiusi al mondo esterno. Quello stesso mondo che in tanti pretendono di voler rivoluzionare, senza però tirare le conseguenze delle proprie pose di ribelli comodamente installati nelle proprie abitudini, relegando la distruzione a qualche slogan e titolo a grossi caratteri senza conseguenze. E questa era la terza parte e penultima parte che leggiamo del testo di Compagni Francesi. Dopo la lettura di Nessuno ci salva, leggeremo l'ultima parte, quella che chiude il testo e l'editoriale di Death Ruin. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Under Art, il brano è Headshot, e poi dopo Nessuno ci salva di Sergio Spesecki. Il giorno dopo, Jan, di nuovo libero, si imbatté in Viktor Rumienski, il suo amico e maestro di musica di un tempo. Il volto dell'ex meccanico, ora dirigente della centrale elettrica di Minsk, si illuminò vedendolo incredibilmente. «Ciao Jan, mi fa piacere vederti qui, come va?» «Non c'è male. Tu invece in gamba, eh? Non c'è modo di contarcela un po' fra di noi a quattro occhi?» «Ma certo, vieni da me, io lavoro qui.» Precedette Jan nel cortile della centrale elettrica e di là nel proprio alloggio. Questo era composto di quattro stanze, ma egli se ne occupava una sola. Su una parete erano appesi una chitarra e un mandolino. Il discorso cadde presto sulle sciagurate condizioni in cui era venuto a trovarsi la città dopo l'occupazione bolscevica. Jan si ricordò che Umiensky, prima dell'arrivo dei rossi, era un fanatico comunista e perciò fu assai stupito sentendo parlare di loro come dei nemici di Dio e del genere umano. Le sue parole erano taglienti come lame e nei suoi occhi balenavano scintille d'odio. Un mare di sangue. E quegli assassini ci sguazzano dentro come se fosse acqua fresca, infami. Ma un giorno affogheranno e bisogna far di tutto per affrettarlo questo giorno, altrimenti... Jan, che fino ad allora aveva sempre ascoltato con diffidenza le discussioni pro e contro i nuovi padroni, sentì che anche nel suo intimo si svegliava un sordo rancore contro chi aveva portato nel suo paese la distruzione e lo sterminio. Senza accorgersene, si trovò anche lui a parlare con astio delle continue violenze fatte subire dai bolscevichi alla popolazione civile. Nessuno aveva mai abusato tanto del diritto belluino della forza come questi sedicenti liberatori di popoli rivoluzionari. Jan raccontò poi come fosse miracolosamente scampato dalle grinfie della cieca dopo il suo ultimo arresto. Umiensky lo ascoltava attentamente con una cupa espressione negli occhi, i muscoli del viso gli si contraevano. Quando Jan ebbe finito il suo racconto, gli disse: «Compagno, devi andartene al più presto. Jan, miracoli come questi accadono una sola volta nella vita. Se vuoi darti alla macchia, io so dove mandarti. Sarai libero, circondato da bravi ragazzi, e potresti anche dare il tuo contributo alla lotta contro queste belve umane. Dammi ascolto, Jan. Fila nei boschi. È l'unica soluzione degna di te. E quando ti sarai deciso, vieni a trovarmi. Ma non pensarci su troppo, perché potresti essere... ormai ritardo.» Jan si alzò tutto eccitato. «Victor, verrò certamente», disse stringendo con calore la mano dell'amico. Tornò a casa con un turbine di pensieri in testa, ma uno su tutti gli dominava: lasciare Minsk al più presto. Gli sembrava di non poter più respirare quell'aria ammorbata da tante infamie. La notte che aveva passato al commissariato in attesa di essere portato da un momento all'altro alla Komarovka gli aveva fatto comprendere quanto fosse diventata precaria la sua situazione a Minsk. E perché doveva aspettare come una bestia da macello che i suoi padroni si decidessero a scannarlo? No, no, no. Disprezzava troppo la gente che camminava per le strade curva dalla paura, tremante a ogni soldato che vedeva. Non voleva essere uno di loro. Voleva sentirsi libero. Voleva respirare aria libera, lottare insieme a compagni coraggiosi e fedeli. Come poteva continuare a vivere in una città dove, coricandosi la sera, non si era sicuri di passare la notte senza brutte sorprese? Migliaia di persone erano già state stritolate dalla macchina infernale della cieca. Ammazzare, per il sadico piacere di ammazzare, per presentare lunghi elenchi di eliminati e ricevere ricompense al proprio satanico zelo, crearsi dei meriti nel partito massacrando insieme a pochi controrivoluzionari migliaia di innocenti. Jan si stupiva di non aver mai pensato a queste cose, o meglio di non averne mai sentito l'orrore così intensamente come ora. Ormai non aveva più compagni. Chi in un modo, chi in un altro, erano tutti scomparsi, uccisi, buttati in galera, oppure fuggiti chissà dove. Molti erano andati nei boschi e si erano uniti ai ribelli. Chiunque avesse fegato e odiasse la tirannide lasciava le città dove infuriava il terrore rosso e si rifugiava nelle campagne dove si stava organizzando la resistenza contro l'invasore. Gli unici motivi che avrebbero potuto ancora trattenerlo a Minsk erano l'amicizia per Maruscia e il desiderio di aiutare Baran. Ne parlò a Maruscia che, data la sua posizione nel partito, era l'unica che potesse far qualcosa per lui, ma ogni tentativo fu vano. Maruscia andò persino da Micin, il bieco presidente della Ceca, ma anche questi trovò il modo di lavarsene le mani. «Compagna, non posso farci davvero nulla, la causa ormai non è più di mia competenza, ma del Supremo Tribunale del Popolo, presso il quale si trova ormai l'incartamento di Baran. Provate forse a interpellare il Tavarish Starkov, ma vi dico fin d'ora che sarà fatica sprecata. Beh, tenterò anch'io di dire una buona parola per vedere di mitigare la sua sorte, ma no, non posso garantire affatto di aver successo». Tornata a casa, Maruscia riferì a Jan l'esito del suo colloquio e lo esortò a non fare alcun assegnamento sull'ultimo passo che rimaneva ancora da fare. L'intromissione del rozzo e ottuso Micin presso Starkov, idealista bolscevico, uomo di legge e raffinato intellettuale, purtroppo non sarebbe valsa a nulla. A questa notizia Jan rimase molto abbattuto, ormai non poteva fare più nulla per salvare Oleg, tuttavia gli scrisse che c'era qualche speranza di ottenere una condanna più mite e dopo qualche esitazione aggiunse che tale speranza era però assai debole, pensando che Baran, rendendosi conto di come realmente stessero le cose, giocasse il tutto per tutto, buttandosi in qualche disperato tentativo di fuga. Shout, shout loud. Shout, shout, shout. Shout loud. questi erano Noise Affex, brano Shout Loud. Ora si ritorna con l'ultima parte del testo dei compagni di Death Ruin, rivista anarchica francese, dal titolo A modo d'avvertenza, che è l'editoriale. Partiamo da non si tratta nemmeno però di accontentarsi dell'azione pura e semplice per soddisfare un nostro piccolo piacere edonista o per sfogare le nostre frustrazioni esaltando la sola bellezza del gesto, come futuristi dei giorni d'oggi. Non si tratta nemmeno di un'agitazione che consisterebbe nell'informare o venire in aiuto degli sfruttati, poiché gli anarchici non sono dei giornalisti alternativi, degli umanitari o delle anime pie ed altruiste. In effetti i nostri atti sono tutti realizzati per interesse, non per simpatia né per rimborsare un debito morale, sociale o intellettuale. Non ci battiamo per i poveri o al loro servizio, ma contro la povertà. Non per i clandestini senza documenti, ma contro i documenti, gli stati e le frontiere. Non per i prigionieri, ma per farla finita con tutte le prigioni e con la giustizia. I nostri interessi sono tutto ciò che contribuisce ad accentuare la conflittualità nel seno della società, senza allo stesso tempo riprodurre quest'ultima. Il nostro obiettivo è di fare a pugni con i rapporti di dominio che sono interni alla società e di infondervi con i nostri diversi interventi delle prospettive reali e chiare, come la rivoluzione e la vittoria, portando un messaggio antisociale comprensibile all'interno della guerra sociale che è in corso da sempre. Tutto ciò senza credere che questi obiettivi appartengono o debbano appartenere soltanto a noi. Chi crede ancora seriamente in un movimento anarchico armato o meno, che basterebbe a se stesso e riuscirebbe a vincere lo Stato sul suo terreno militare e strategico o su un terreno sociale per mezzo di un'immaginaria opinione pubblica davanti alla quale bisognerebbe dimostrare di essere raccomandabili, chi vuole ancora crederci? Innanzitutto a causa dell'evidente asimmetria, poi perché pensiamo che le nostre solo vittorie verranno da tensioni sociali insurrezionali che non potranno mai appoggiarsi solo su di noi e la nostra evidente debolezza numerica. Bisogna essere capaci di abbandonare i vecchi miti delle rivoluzioni anarchiche pure perfette ed abbracciare le possibilità così come esse si presentano a noi, sempre restando fedeli a noi stessi, cioè senza cadere nelle sirene del populismo e del possibilismo. Di questi tempi gli anarchici non possono pretendere ad altro che alla costituzione di una minoranza agente con una reale capacità di intervento, di distruzione ma anche di costruzione. Costruzione non di un nuovo mondo angelico oppure di alternative o forme di vita, ma di iniziative, di spine del fianco, di agitazione, di attacco, di continuità, di approfondimento, di capacità tecniche e teoriche reali. Perché vogliamo davvero la rivoluzione, non accontentarci di un romanticismo piacevole ma inconseguente. Il nostro scopo non è quindi quello di creare o contribuire a creare una nuova anarchia, visto che la vecchia, quando libera dalle logiche dei partiti e dei loro congressi internazionali di ieri e di oggi, di ogni politica, di ogni demagogia e di ogni organizzazione permanente, cosiddetta informale oppure no, ci basta alla grande e ci avanza. Come conferma il contenuto di questa rivista, non si tratta per noi di fare tabula rasa del passato, di creare nuovo ad ogni costo, come ci spinge a fare quest'epoca di noia morbosa. Nessuna anarchia 2.0, quindi, qui. La memoria del movimento anarchico è bella e complessa, la sua tradizione è la sola tradizione che rispettiamo, forgiandola a nostra volta attraverso gli atti e qui attraverso il pensiero e la critica. Questa rivista costituisce quindi anche un omaggio ad un ricordo alle lotte dei compagni del passato, sempre presenti in ogni angolo delle nostre teste e minacciati dall'imperativo della modernità e del suo culto della velocità, del nulla e dell'oblio. Precisiamo comunque che tutto quello che si potrà leggere qui ha un solo scopo, quello di riconciliare l'agire e il riflettere. Ciò con durezza a volte, e se il tono rischia di spaventare quelli che fra i nostri compagni che più danno importanza al consenso oltre che i soliti piagnucolosi del movimento, speriamo che il fondo verrà compreso per quello che è e non messo da parte con la scusa della forma e delle piccole arrabbiature dovute alla mancanza di educazione. Non buttare per terra la tua gomma da masticare, compagno, questo è riflesso automatico classico di autodifesa di chi rifiuta di affrontare le proprie contraddizioni, cosa che prometterebbe una certa comodità e di affermare la propria rottura con l'esistente e i suoi meccanismi di consenso e pacificazione dei rapporti che hanno largamente penetrato in Francia il piccolo movimento di suoi anarchici. In effetti oggi la critica viene accettata solo se è educata e civile, oppure quando essa non è veramente critica. Che le eterne anime sensibili e suscettibili si astengono quindi dal leggere questa rivista, con rischio di trovare nuovi pretesti per sfuggire all'autocritica. Queste pagine si scrivono quindi all'interno di una tradizione insurrezionale, critica ed individuale dell'anarchismo, come è stata portata da numerosi anti-organizzatori del passato, ed ogni linea vi sarà redatta da individui in lotta di oggi o di ieri, illustri, anonimi oppure tutti e due. Nessun filosofo qui, nessuno scrittore professionista, nessun nichilista della piccola borghesia studentesca, nessuna foto sensazionalista di Kalashnikov e di auto in fiamme, né pappardelle di parole per giustificare la propria inazione e le proprie azioni merdose. Alla ferocia, all'intensità, alla coerenza, viva l'anarchia. Per esprimere le vostre inquietudini sui litigi di potere che questa rivista potrebbe provocare nelle piccole caserme ideologiche, per ogni reclamo, convocazione, requisitoria per diffamazione, messa in stato d'accusa, diritti d'autore e piccoli bottegai delle idee, c'è una mail, vaffanculo, @pissoff.com, per mandare traduzioni, critiche, nel tono che vorrete, corrispondere, contribuire, discutere, condividere, distribuire, rispondere e rimettere in questione, desruin@riseup.net. E questo era il lungo editoriale dei compagni della rivista Desruin, rivista anarchica francese, che è uscita con numero 1 a dicembre del 2014. Ora ci ascoltiamo un brano un pochino lunghetto, perché ora è stata lunga la lettura. C'è Scirocco, Plastic fa caldo, Assault, fa The Bite, nonostante la pioggia c'è Scirocco, e quindi poi dopo ancora una nuova lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. In den Kopf schießen, schießen in den Kopf, Mann, zerstör das Gehirn. We'll be right back. ihn in den Kopf, Mann! Zerstör das Gehirn! Oramai erano due settimane che Jan era stato rilasciato e il piccolo gruzzolo che aveva da parte stava, si stava esaurendo. Decise allora di vendere quel poco che si era salvato dalla perquisizione il giorno del suo arresto, ma a conti fatti si trovò con un pugno di mosche. La roba non valeva più nulla, tutti cercavano di vendere per procurarsi un pezzo di pane. D'altra parte non se la sentiva più di rubare ai merli. Col cambiamento di regime la classe borghese era stata fin troppo duramente provata e, indipendentemente dal fatto che aveva promesso a Maruscia di sospendere la sua attività di dritto, i vantaggi di queste attività erano sproporzionati ai gravissimi rischi che si correvano. L'unico modo di risolvere la situazione era dunque di andarsene, come gli aveva consigliato il compagno Mienski. Jan si era già recato da lui, aveva fissato un appuntamento con uno degli uomini di Monich che l'avrebbe condotto nel luogo dove era nascosta la banda. Jan decise di informare Maruscia dei suoi piani, la trovò a letto che sfogliava un manoscritto e non appena lo vide entrare Maruscia comprese subito che c'era qualcosa di nuovo nell'aria. Che c'è? Jan, ti è accaduto qualcosa? Maruscia, mi spiace, devo lasciarti, ma devo andarmene, me ne devo assolutamente andare. Ero certa che un giorno o l'altro avresti preso questa decisione. Sì, Maruscia, non posso più resistere qui. È una bolgia dalla quale non mi salverei una seconda volta. Sono sicuro che farei una brutta fine a Minsk. E poi è tutto così orribile, non so, mi manca l'aria, soffoco, anche vicino a me. No, Maruscia, non dire questo. So benissimo che senza di te sarei da molti giorni sottoterra. Se provo un dolore andandomene, è proprio quello di lasciarti. Maruscia lo guardò a lungo negli occhi, poi disse piano ma con fermezza: sì, devi assolutamente partire, Jan. Nessuno deve andare contro il proprio istinto né soffocare la propria volontà. Jan non prevedeva una così pronta comprensione da parte di Maruscia. Gli era costato tanto parlarne di quella sua decisione e pur provando sollievo alle sue parole si sentì anche un po' deluso. Non sarò certo io a intralciarti la strada, continuò Maruscia. Tu hai bisogno di una vita libera, avventurosa, con dei compagni sicuri, dei compagni che sappiano muoversi nei boschi. Sei stanco di sentirti in gabbia. Vola dunque, vola via, apri le ali, ricordati solo che qui hai un'amica fedele che ti aspetta se mai un giorno volessi tornare. Jan, tutto cambia, ma il mio affetto per te rimarrà sempre immutato. Se verrai ancora a Minsk mi troverai qui, in questa stessa cameretta dove ci siamo uniti tante volte. Forse un giorno, chissà, potrai ancora avere bisogno di me. Jan taceva guardando Maruscia con gli occhi lucidi. Ella si accorse che era commosso, gli diede un buffetto sulla guancia e cambiando tono disse allegramente: ma adesso non commuoviamoci troppo e parliamo invece di cose serie. Tieni le orecchie ben aperte, Jan. Io ho la possibilità di essere sempre informata di cose di estrema importanza. So che sei in contatto coi ribelli e con qualcuno di qui. Forse ti stupirai se ti dico che voglio esservi utile, ma so che siete gli unici che avete il coraggio di lottare contro chi ha calpestato e gettato nel fango ciò che di più nobile e sacro è nel cuore dell'uomo. Io, Jan, sono comunista, ma non come loro, non come i boia che massacrano migliaia di innocenti solo perché sono nati in un ambiente più elevati del loro. Vai, va pure Jan, vai a lottare contro chi ha strappato dalla morte la falce e si dimena come un forsennato, seminando la strage intorno a sé senza risparmiare neppure i fanciulli. Ma tu rimarrai qui, Maruscia? riuscirai a non tradirti. Un giorno vi raggiungerò anch'io, ma non è ancora giunto il momento. Non immaginarti però che io venga a cercarti, a pretendere che tu ti ricordi. Neanche per sogno voglio che la nostra amicizia rimanga salda in mezzo al turbinio degli eventi. Siamo sempre stati leali l'uno con l'altra e questo è ciò che più mi importa, non è vero? Certo, Maruscia. Si salutarono commossi. Maruscia si sforzava di apparire allegra, ma quando Jan fu uscito, chiuse la porta a chiave e si buttò, singhiozzando, sul letto. Erano Motor Mark con il brano You Are Talk. Ora si ritorna alla controinformazione con il secondo testo della giornata, che avevo già preannunciato all'inizio. Praticamente un testo estrapolato da Macerie, una rivista anarchica di qualche anno fa, ed per l'appunto l'articolo è del novembre 2008, però io ritengo che sia ancora tuttora validissimo, quindi si è deciso di pubblicarlo a discapito di tanta altra controinformazione che in questo periodo a noi come radiazione non interessa. Il testo si chiama "Ma tu sei antifascista, sì o no?". Chissà quante volte mi sono sentito porre questa domanda, ne ho perso il conto, e ogni volta che ho cercato di affrontare questa discussione sono sorti mille equivoci e incomprensioni. Il fascismo non è stato forse l'italica versione del male assoluto? Va da sé che l'antifascismo non può che rappresentare il bene assoluto, una virtù pubblica da esibire e da sbandierare in più di un'occasione. Guai a socciare il naso in sua presenza, a non mostrare la dovuta riverenza nei suoi confronti, a non tramandare la gloriosa tradizione, si viene guardati con sospetto. Negare l'applauso all'antifascismo è sinonimo di loscambiguità, se non peggio. Eppure che la retorica antifascista sia arrivata al capolinea dovrebbe essere ormai chiaro e a chiunque, soprattutto oggi che tutti si proclamano antifascisti. Tutti, perfino l'attuale presidente della Camera, all'epoca del 2008, sì, proprio lui, l'ex delfino del fucilatore di partigiani Almirante. Già, ma è l'effetto della generale usura delle parole e del loro significato. Il termine fascista è stato talmente usato e abusato che ha finito per indicare tutto e il suo contrario, praticamente niente. E allora perché insistere a ricamarci sopra? Anzitutto una precisazione, tralasciando le lucubrazioni semantiche, sono antifascista sì o no? Sono nemico del fascismo, certo, ma la definizione antifascista mi mette addosso un certo nervosismo, me la sento troppo stretta, mi fa mancare l'aria. Io penso che l'antifascismo sia sì una virtù, ma di natura molto parziale. Appena si organizza e si vuol far passare per totalità, si trasforma in vizio. Per spiegarmi meglio, userò un'analogia. Voi credete in Dio? Io no, non credo in nessun essere supremo. Per cui considero con ostilità ogni religione, quale che sia, giacché tutte costituiscono il proprio potere, costruiscono il proprio potere sulla pretesa esistenza del fantasma divino. Sicuramente sono ateo e questo fa di me al tempo stesso un anticristiano, un antimusulmano, un antigiudaico, eccetera, eccetera. Questa era la prima parte del testo estratto da Macete. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Federed con il brano TZDV e poi dopo si ritorna qui con la lettura di Nessuno ci salva di Sergio Spiasecki. Stava rincasando quando fu raggiunto dal cittadino che stava appunto venendo da lui per consegnargli un biglietto di Oleg. Il biglietto era così sporco e spiegazzato che a stento riuscì a decifrare le poche righe che vi erano scritte a carattere stampatello. Sotto la casa del mio più fedele amico si trova ciò che abbiamo trovato un giorno con Ajur. Dividi tra te e Pavka, curati del cane, io sono spacciato, firmato il mongolo. Il giorno dopo l'arresto di Barana, Pavka si recò da Samantha per protestare contro gli agenti che avevano letteralmente spogliata la sua casa lasciandole appena qualche mobile. Era convinta che si trattasse di un malinteso e non aveva il minimo dubbio che il suo amante le avrebbe fatto restituire ogni cosa. Ma Costantino Samantha, che essa fece chiamare nel corridoio, finse di non conoscerla neppure. «Desidera? Costantino caro, ieri mi hanno derubata quei tuoi agenti». «Non so a quale furto vuole alludere, a ogni modo io non sono Costantino, ma un funzionario di polizia, perciò parli chiaro e si spicci, perché non ho tempo da perdere». Sbalordita Pavka balbettò un elenco di cose che erano scomparse durante la perquisizione. «Anche i miei vestiti, le posate, tutto! E come farò adesso?» «Come amante complice di un bandito, dovresti essere arrestata e seguire la sua stessa sorte. Se finora sei stata risparmiata, lo devi alla pietà che la tua stupidaggine ha ispirato al commissario. Ti consiglio di andartene in fretta e di non farti più vedere da queste parti». E così dicendo, Samantha rientrò nel suo ufficio sbattendo la porta dietro di sé, lasciando la donna sbigottita lì in mezzo al corridoio. Pavka ritornò a casa addirittura stravolta. Per la strada stringeva i pugni e senza badare alla gente piangeva e gridava: «Vigliacco, mascalzone, tutto per colpa di quell'infame calzolaio!» Anche dopo l'umiliazione che le aveva inflitto, Samantha riversava tutto il suo odio sull'uomo che aveva tradito. Quando ebbe letto il biglietto di Oleg, Jan salutò il cittadino e si affrettò a raggiungere Nastka, che stava preparando la cena. Le raccontò tutto. Non aveva segreti per lei ed era certo che la sua fedeltà come Baran di quella di Caro. Andandosene, Jan non voleva portare con sé quel segreto perché non sapeva quale sorte gli sarebbe toccata. Dopo essersi consigliato con Nastka, decise di lasciare il tesoro dove si trovava. Dopotutto, non era escluso che Baran riuscisse a salvarsi in un modo o nell'altro. Quando fosse stato sicuro della sua fine, sarebbe andato a prendere il tesoro e l'avrebbe diviso in due parti come voleva Oleg, ma non se la sarebbe sentita di obbedire all'amico consegnando a Pavka la metà della somma. Quella donna non gli era mai simpatica. Ma ora che la sospettava responsabile dell'arresto di Baran e del proprio, non la poteva addirittura vedere. E se anche non avesse tradito l'amante, Pavka non meritava nulla, perché da quando conosceva Oleg non aveva fatto che amareggiarlo e rendergli la vita infelice. Nastka condivideva in pieno i sospetti di Jan e il suo risentimento verso Pavka. Agitando il pugno in direzione dell'alloggio attiguo, disse con la voce fremente di collera: «Neanche un centesimo! Nessuno mi toglie dalla testa che Oleg è perduto per colpa sua! Ho capito tutto fin da quella mattina! Daremo a qualcuno che ha più bisogno di noi la parte che Baran le ha destinata, ma lei, sì, lei può crepare di fame! E tu, Nastka, come farai quando non ci sarò più?» Nastka sorrise: «Oh, io non ho paura, ho una casa, ho della legna, ho un po' di roba e in qualche modo me la caverò. E potrò lavorare, provvederò a me stessa e al cane, lo prenderò oggi stesso in casa, a marcio dispetto di quella lì». Non voleva neppure pronunziare il nome di Pavka, tanto che lei era odiosa. La fine del giugno 1919 segnò l'inizio del terrore rosso a Minsk. I bolscevichi raddoppiarono la loro cieca furia omicida, sentendo da infallibili segni che intorno a loro serpeggiava la ribellione, accavallando sul loro capo delle nubi sempre più minacciosi. La paura, l'incertezza e la rabbia facevano vedere loro dovunque la controrivoluzione e li inducevano a spegnere nel sangue ogni scintilla, vera o immaginaria, di rivolta. In città la vita era divenuta impossibile. La popolazione, quasi istupidita dalla paura, viveva nel continuo incubo della cieca. Nei boschi, invece, l'estate sfoggiava tutta la sua smagliante gamma di luci, di colori, di profumi. Sembrava che la natura volesse addolcire col suo fascino l'angoscia degli uomini che si rifugiavano nel suo seno, scacciati dall'odio mortale dei loro simili. Jan aspirava con voluttà l'aria selvaggia della brughiera mentre camminava dietro alla sua guida tra le betulle. L'uomo che l'accompagnava poteva avere una quarantina d'anni, era robusto e alto di statura. Il suo passo si muoveva rapido e sicuro in mezzo alle irregolarità del terreno. Si avvicinava la sera, sul suolo si allungavano le ombre degli alberi e a poco si smorzava lo splendore dei cespugli di biancospino. Solo il cielo conservava la sua limpida tersità e le cime degli abeti rosseggiavano ai bagliori del tramonto. I due uomini entrarono in un bosco. E benché fosse stanco per la lunga marcia, Jan non si era mai sentito così bene, così pieno di gioventù e di salute, così felice. Per la prima volta, dopo mesi e mesi, si sentiva veramente libero. Ogni tanto si toccava la rivoltella che gli pendeva dal fianco. Non era più una vittima impotente e inerme alla mercé dei commissari di polizia rivoluzionaria. Adesso aveva la possibilità di difendersi contro qualsiasi attacco. Man mano che si addensava l'oscurità, la guida rallentava il passo, ma gli occhi, abituandosi gradatamente al buio, riuscivano a distinguere ogni particolare della pineta attraverso la quale filtrava la pallida luce delle stelle. Verso mezzanotte, Jan vide, a un centinaio di metri di distanza, dei bagliori di fuoco fra i tronchi degli alberi. La guida si fermò e, voltandosi per la prima volta verso Jan, disse: «Non è prudente andare avanti, il terreno è seminato di trabocchetti». Fischiò tre volte, poi accese una sigaretta, tenendola in modo che fosse visibile l'accampamento. «Che cosa aspettiamo?» domandò Jan. «Adesso verrà qualcuno», rispose quello. Dopo un po' si udì un fruscio di passi, una pila s'accese e cercò i nuovi venuti, mentre una voce chiedeva: «Chi è? Barila! Girate a destra!» Jan e il suo compagno andarono a raggiungere la guida che si diresse verso il falò, descrivendo degli ampi zigzag per evitare i trabocchetti. Poco dopo raggiunsero un'ampia radura in mezzo alla quale ardevano degli enormi ceppi resinosi. Tutto intorno vi era un recinto di pali conficcati nel suolo, attorno ai quali erano intrecciati rami e frasche. Questa parete vegetale aveva lo scopo di celare la vista dei falò e di non farne dispernere il calore. Una cinquantina di uomini erano sparsi qua e là in gruppi pittoreschi che sembravano disposti da un artista. Da uno dei gruppi si alzò un uomo scarno che avanzò zoppicando lievemente verso di lui. Passando tra i vari gruppi, scavalcava i dormienti badando bene a non schiacciare qualche mano o a urtare contro qualche piede. Jan notò con stupore che indossava un pastrano militare zarista e un berretto fregiato con le stelle rosse bolscevica. L'uomo che aveva fatto da guida Jan gli andò incontro e gli disse qualcosa, porgendogli un plico che si era tolto di tasca. Poi, indicandogli col pollice Jan, disse laconicamente: «Eccolo». L'uomo che indossava il pastrano militare fece cenno a Jan di avvicinarsi e gli tese la mano. «Sono Monic. Ho sentito molto parlare di voi», disse Jan stringendogli con calore la mano. «Hai fame?» «No, grazie. Sono solo un po' stanco». «E allora buttati giù a dormire, non ci sono coperte, ma qui dentro non avrai freddo. A domani». Jan si sdraiò supino su delle frasche d'abete con le mani dietro la nuca e gli occhi rivolti al cielo. L'orsa maggiore era sopra di lui, aveva una gran confusione in testa, ma di una cosa era certo: quella era la prima volta dopo moltissimo tempo che si sentiva felice alla fine di una giornata. Do you want to save your soul or do you want to save your ass in the name of justice? Thank you. drugs, boy. Way for the future. Questi erano Little Strip con il brano No Scandi. Ora si legge l'ultima parte del testo preso da Macete del 2008 sulla questione antifascismo. Ma questi ultimi tratti sono per me secondari, mi appartengono pur non caratterizzandomi del tutto. Sono per l'appunto descrizioni parziali che prese singolarmente non esprimono appieno la mia totalità. Sono le classiche mezze verità che a furia di essere ripetute rischiano di diventare menzogne. Una dimostrazione? Mettiamo che qualche giovanotto occidentale mi avvicinasse e mi invitasse a partecipare ad un'iniziativa antimusulmana. Cosa dovrei fare? Accettare? Non scherziamo. Sono antimusulmano, è vero, ma mica solo questo. So bene che la lotta all'Islam attira orde di novelli crociati dalle camicie neri o verde, per cui una proposta simile mi puzzerebbe troppo di integralismo cattolico. Allo stesso modo, se qualche giovanotto orientale mi avvicinasse e mi invitasse a partecipare ad un'iniziativa anticristiana, ugualmente declinerei l'offerta. Sono anticristiano, lo ammetto, ma mica solo questo. Perciò non amo nemmeno la compagnia di chi fa della lotta alla Chiesa la propria guerra santa, mi puzza troppo di fondamentalismo islamico. Se dovessi quindi definirmi in base alle mie idee in merito alla religione, userei esclusivamente il termine ateo. Ogni altra definizione, per quanto in sé corretta, mi sembrerebbe troppo limitata, troppo vaga e ambigua. Ecco perché ogni iniziativa antireligiosa, per poter suscitare il mio interesse, deve manifestare chiaramente la sua contrarietà a qualsiasi religione. In questo modo si limitano le occasioni di incontro e i possibili contatti con altre esperienze. Ne sono consapevole, ma di certi incontri e contatti ne faccio volentieri a meno. Ecco, prendete questo ragionamento e trasportatelo dal regno dei cieli agli stati della terra. Il risultato non cambia. Io sono nemico del fascismo, ma sono anche nemico della democrazia. Tra il bastone e la carota, tra la tirannia dei pochi e la tirannia dei molti, non vedo grande differenza. Per me si tratta solo di forme particolari che lo Stato o chi per lui può assumere, a seconda delle circostanze e delle esigenze, per imporre l'esercizio della propria autorità. Ma chi vuole sottrarsi a questo dominio perché considera che ogni forma di autorità sia la negazione della libertà, non può che rifiutare entrambe con la stessa forza e determinazione. Per questo motivo non riesco ad apprezzare le iniziative antifasciste, così come non gradisco quelle antidemocratiche. Mi rendo conto che le prime sono frequentate per lo più dai benintenzionati, mentre le seconde per lo più da malintenzionati. Ma le intenzioni, buone o cattive che siano, non dovrebbero imbavagliare mai lo spirito critico. L'antifascismo resta comunque un ricettacolo di bolso democristiano, come anche in passato hanno sostenuto tanti sovversivi. E come è stato ribadito puntualmente fino a non molto tempo fa, almeno finché il dilagare nel bel paese di aggressioni squadriste non ha consigliato di riesumare il colpo di colpo la retorica, a quanto pare il culto della carogna non è redditizio solo con gli interessi umani, ma anche con le idee. Snobbato finché non c'erano neri mazzieri all'orizzonte, l'antifascismo viene ora sbandierato per poter usufruire del suo effetto mobilitante. Un vessillo è un vessillo, serve per fare adunata. E se quello che prima veniva criticata funziona meglio, numericamente meglio, tanto vale nascondere e mettere sotto naftalina il proprio. La dignità, la coerenza, l'amor di sé, tutte belle cose, per carità, ma a chi volete che interessino? Come diceva un candore, un putrido ex ministro, non bisogna confondere etica con politica. Invece io, testardo e ottuso, insisto e persisto nel pensare che la lotta contro il fascismo non vada affogata nel calderone antifascista, nelle cui torbide acque si diluirebbe fino a scomparire. Ciò non solo sarebbe nocivo dal punto di vista teorico, ma sul lungo periodo lo diventerebbe anche dal punto di vista pratico, una volta esauritasi l'illusione quantitativa. Gli squadristi che in questo periodo si stanno scatenando per le strade sono solo una escrescenza del mondo in cui viviamo. Ne sono magari la parte più disgustosa e appariscente, ma nulla di più. È necessario difendersi dalle loro aggressioni, all'occasione cercare di neutralizzarli, però senza farne il nemico pubblico numero uno. Puntare i riflettori su di loro ottiene l'attenzione generale e scalda gli animi, si capisce, ma purtroppo permette anche di lasciar proliferare nell'ombra ciò che li circonda e li produce. Non penso si possa tacere su questo aspetto solo per amor di vicinato. Se tanti sovversivi non l'hanno fatto negli anni 20 e 30, quando il fascismo dominava e brutalizzava l'intero paese, perché dovremmo farlo noi oggi? Macete numero 3, novembre 2008. E questo era il testo con cui chiudiamo la diretta di oggi, 27 aprile. Ricordo che il prossimo appuntamento non è venerdì, che è il 1° maggio, ma è per lunedì prossimo, sempre con lettura, controinformazioni e ovviamente la musica per intervallare. Radio Azione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, letture, provocazioni, musica.